fondamentalmente in commissione parità ho presentato questa risoluzione che è stata poi sottoscritta anche da vari altri colleghi anche di altri partiti, e nella quale chiediamo, dato il dal mio punto di vista peggiorarsi della situazione, nel senso che sempre più mass media e giornali, sia cartacei che digitali che online, e purtroppo nel raccontare la violenza sulle donne finiscono per colpevolizzare la vittima, in qualche modo giustificare chi compie l'atto di violenza, la richiesta è quella proprio alla giunta regionale di adoperarsi per un monitoraggio costante dei mass media e una segnalazione che arriva direttamente appunto o dal CORECOM, che è organo dell'assemblea legislativa, o direttamente dall'assessorato regionale alle pari opportunità, all'ordine dei giornalisti, per tutte quelle volte in cui dal loro punto di vista viene violato il codice deontologico. Possiamo parlare di una logica a chiappa clic all'interno della stampa italiana? Sì, io credo proprio che ci sia questo fenomeno. È chiaro, non lo estendo ovviamente a tutte le testate piuttosto che a tutti i mass media, c'è anche fortunatamente chi sa fare il proprio mestiere, chi sa fare bene informazione, ma è chiaro che quando si va a raccontare di violenza di genere, volendo forzatamente soffermarsi su dei dettagli morbosi piuttosto che appunto raccogliere anche un tipo di interviste, abbiamo visto molte volte interviste ad ex compagni di scuola piuttosto che a colleghi di lavoro, a vicini di casa, che vanno proprio a voler giustificare l'aggressore, e ecco, io credo che questo sia fatto proprio apposta per, come diceva lei, acchiappare un click in più, e credo che questo vada in qualche modo a colpevolizzare la vittima, appunto a giustificare l'aggressore e in qualche modo ad addossare due volte la colpa alla vittima. E possiamo parlare anche di un'alterazione della realtà proprio a livello di fatti, una realtà che viene raccontata diversamente o in modo, insomma, diverso da quello che poi è. Io credo che ci sia la volontà di far emergere dei dettagli che spingano le persone a giustificare, e questo credo che sia appunto arriva ad alterare la realtà, perché ad esempio quando leggiamo del come era vestita una ragazza prima di essere stuprata, piuttosto che del imminente divorzio di una donna nei confronti di un uomo come giustificazione all'atto violento da parte dell'uomo, fino anche all'omicidio della donna stessa, credo che sia un'alterazione della realtà nel momento in cui questo viene raccontato come giustificazione. La consigliera Stefania Bandovalli si era detta d'accordo con lei e aveva anche commentato dicendo: parliamo di quello che è violenza e basta, quindi si trova d'accordo con queste parole? Sì, assolutamente. La consigliera Bondavalli, che è anche nella mia stessa lista, ha sottoscritto appunto questa mia risoluzione, è giornalista lei stessa, quindi conosce da vicino anche questo tipo di problematica, e assolutamente ha voluto ribadire che quando si tratta di violenza dobbiamo parlare di violenza, appunto, non di altri dettagli che dal mio punto di vista possono risultare appunto morbosi ed inutili. Una riforma del linguaggio giornalistico, una più attenzione al lessico che si usa appunto nella stampa italiana, deve però essere correlata da una rinnovazione culturale. Questo è la grande sfida, secondo me, del nostro tempo, perché è chiaro che quello che stiamo in questo momento affrontando dal punto di vista giornalistico è in realtà un retaggio culturale che ancora c'è, importante nella nostra società, e quindi è su questo che dobbiamo lavorare. Lo dicevo anche nell'esposizione stessa della risoluzione, è chiaro che dobbiamo lavorare, in questo caso lo facciamo con i professionisti dell'informazione, ma in modo particolare sulle nuove generazioni, perché è da lì che possiamo far nascere un tipo di cultura diverso e una cultura di parità finalmente. La cosa importante sarebbe anche cominciare, noi ovviamente come istituzioni dobbiamo fare la nostra parte e l'informazione deve fare la propria, ma io credo anche che sia importante che ogni cittadino cominci anche a riconoscere quei casi in cui la violenza viene raccontata in modo appunto sbagliato, possiamo veramente dire così, e quindi che siano anche loro stessi poi a fare delle segnalazioni, perché nel momento in cui riusciamo a raggiungere l'obiettivo in cui alle orecchie e agli occhi di chi legge stona un racconto di quel tipo, allora saremo veramente sulla strada giusta. Finché invece questo tipo di linguaggio, anche giornalistico, passerà in qualche modo inosservato, perché è normale che sia così, ancora ci sarà tanta strada da fare.